mi puoi dire non provavi niente. Non c'è stato proprio nulla tra di noi. Quando ci siamo visti per la prima volta, è stato solo cinema e fatalità. I giorni vanno avanti come una metro, sole e pioggia, le cose cambiano. Ma ogni volta che ripenso a noi, i ricordi quasi quasi affogano. Dentro una bottiglia d'acqua vuota, dentro questa vita ancora più vuota. Ho letto un libro senza copertina perché mi ricordava te. Mi ricordava te, mi ricordava te, mi ricordava te, mi ricordava te. Quella stupida vacanza al mare, ho pensato di affogare. Tu non sei mai stata mia, è stata solo fantasia. Quella stupida vacanza al mare, ho pensato di affogare. Tu non sei mai stata mia, è stata solo fantasia. Sono tanti 100 giorni distanti, altrettanti se non posso sentirti. Perché da perfetti insieme siamo estranei. Noi, noi, noi. Vorrei portarti al mare un'altra volta ancora, rivivere quei giorni per averti qui vicina. Ed anche se finisse uguale a prima, mi accontenterei di respirare la tua aria. La tua aria, la tua aria, la tua aria. Quella stupida vacanza al mare, ho pensato di affogare. Tu non sei mai stata mia, è stata solo fantasia. Quella stupida vacanza al mare, ho pensato di affogare. Tu non sei mai stata mia, è stata solo fantasia. Vacanza al mare che rifarei.